Blue Time Live. Sono le 21, passate da 2 minuti. Buonasera da Agostino Spolaore, che eccezionalmente questo mercoledì sera farà una lunghissima cavalcata musicale in diretta qui fino a mezzanotte con il suo fedele compagno. Poteva mancare. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sarà una serata lunghissima, diciamo, e dicevo al prima perché cominciamo adesso, ma insomma sarà prima impernata su una telefonata di una persona molto importante nell'ambito della musica italiana, ma ne parliamo tra qualche istante. Poi avremo un live qui in studio con una band. Prima di tutto allora il nostro numero telefonico con in studio lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo, quindi l'avete poc'anzi sentito, 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Se invece ci volete ascoltare tramite internet, vi ricordo lo streaming semplicemente andando nel nostro sito, cioè www.bluradiovento.it, e da lì poi c'è scritto ascoltare radio e lì la potete ascoltare in diretta 24 ore su 24. Le nostre pagine su Facebook sempre presenti, Blu Radio Veneto e Blu Radio Veneto Rock Wave. Se ci volete scrivere, ben felici di leggere i vostri messaggi, o anche nella mia pagina anche questa sera per fare qualche domanda, se volete farla a Claudio Brasini, che tra poco lo presentiamo. E vi ricordo quindi la pagina di Facebook del sottoscritto, cioè Agostino Spolaore. Io direi, Maurizio, di fare subito sentire la voce di questo chitarrista di una grande band, cioè i Baustelle, cioè Claudio Brasini. Ciao Claudio, benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao, grazie. Ciao a voi. Claudio, come stai? Bene. Tutto bene? Tutto bene, ti facciamo i complimenti per l'ottima tournée, adesso è momentaneamente terminata, ma il concerto che hai fatto a Padova è stato straordinario, la band era in formissima, insomma, bisogna dirlo. Sono contento che sia piaciuto. Sì, decisamente. La dimensione con l'orchestra ci fa bene. È vero, vi fa bene. Questo è il sesto album Fantasma, un sesto album che è il primo autoprodotto. Mi pare Francesco abbia detto aveva avuto lo sfizio di produrci da soli. Sì, è vero. E quindi maggiore soddisfazione. È stata una sfida importante, ci siamo tolti un sassolino dalla scarpa, era già da un po' di tempo che facevamo la prova generale per la produzione artistica. Avevate la voglia di fare la produzione artistica propria, insomma. Sì. Oltretutto, nel senso, abbiamo avuto dei maestri abbastanza importanti, perché comunque lavorare con Carlo Rossi o lavorare anche con Pat McCarthy, che aveva prodotto sì, il precedente, i Mitici dell'Occidente, esatto. Sono state esperienze molto interessanti, molto costruttive. Comunque noi avevamo sempre messo un po' lo zampino nella sì. produzione, però non a questo livello. No, questa volta abbiamo fatto tutto interamente da noi. Ci siamo portati in studio il nostro fedele fonico Marco Tagliola, che insomma ci ha aiutato anche lui più che altro nell'uso delle macchine, della tecnologia. E questo, l'idea di questa grande orchestra, Claudio, questa grande orchestra polacca, come mai l'idea di questa grande orchestra? Perché questo sound orchestrale? Ma senti, il sound orchestrale alla fine è sempre stato delle vostre corde, questo è vero, delle nostre cose fin dagli inizi. Poi per vari motivi non avevamo mai avuto l'opportunità di farla emergere fino in fondo, fino a questo punto, diciamo. Vuoi perché all'inizio magari avevamo dei problemi di budget economici, e vuoi perché magari nei lavori precedenti avevamo privilegiato più il lato pop rock rispetto a quello orchestrale. Questa volta qui diciamo che il lavoro è stato un po' diverso, ovvero abbiamo messo in primo piano l'orchestra e poi abbiamo aggiunto qua e là i colori tipici nostri, sì, quindi che ne so, chitarra elettrica piuttosto che batteria, piuttosto che basso, dove ce n'era bisogno, perché i Baustelle sono una cosa strana proprio come gruppo. Se considera che il gruppo siamo io, Francesco, per Rachele. Sì, esatto. E in realtà non è un gruppo, cioè siamo tre autori che scriviamo e poi facciamo le cose, quindi non è l'approccio con cui si crea la canzone, non è l'approccio del gruppo, ovvero io sono la chitarra, allora perché io sono chitarrista del gruppo, ci vuole per forza la chitarra elettrica nelle canzoni. In realtà no, nel nostro caso è che ognuno dei tre porta dei brani e poi quei brani vengono sviluppati, per cui io che sono chitarrista è possibile anche che ci sono delle cose che scriva io dove per esempio la chitarra non c'è. Certo, certo. No, non è un problema, è solo per dire che diciamo così, abbiamo una forma aperta e siamo aperti a tutto, insomma. Vive la democrazia, insomma. Sì, sì, sì. Democrazia artistica. Sì, diciamo. certo, sempre artistica. Ognuno mette del suo, insomma. Ma toglimi una curiosità, Claudio, che difficoltà avete avuto appunto ad essere assieme a un'orchestra così grande? A suonare insieme? Sì, sì, sì, a suonare insieme, sì. Ma guarda, innanzitutto suonare insieme a un'orchestra, per me, diciamo che sono il chitarrista poi principale, è stimolante, ma allo stesso tempo è molto, richiede molta concentrazione, perché suoniamo delle parti, cioè non è come la canzone rock per esempio o pop, che te magari suoni la parte di chitarra dall'inizio alla fine per 3-4 minuti e quindi l'attenzione, diciamo, ci vuole meno attenzione paradossalmente. Se te sei chiamato a suonare il tuo intervento in 20 secondi e magari una parte solista tipo morriconiana, è molto più, serve molta più attenzione e devi dare tutto in quel momento lì, no? Paradossalmente devi suonarti il pezzo in testa senza suonare, è difficile, però è bellissimo. Cioè quindi saresti propenso per farne anche una seconda volta? Perché no? Perché no? Vediamo, ora noi ancora sinceramente non pensiamo a album nuovi o a lavori nuovi, ci vogliamo godere questa dimensione qui, sicuramente in estate ripeteremo la formula, credo che siano già uscite 3 o 4 date estive dove ci riproporremo dal vivo nelle piazze con l'orchestra al completo, quindi no, ma ci stiamo divertendo, siamo contenti di quello che facciamo, vediamo i feedback, insomma, che riceviamo anche dal pubblico, sono molto positivi. È stata una scommessa vinta. Siamo molto contenti, siamo molto contenti. Poi la prima parte del tour è andata ottimamente, moltissimi sold out, quasi tutti sold out, quindi è una cosa positivissima. Nel senso, noi eravamo abbastanza contenti del lavoro che avevamo fatto, perché magari sembrerà egoista. Ma diciamo così, l'album a noi piaceva molto, era un album che volevamo fare, indipendentemente dai dubbi magari, sai, della casa discografica, certo, perché non rispettava i certi canoni, o cose di quel genere lì. Ce ne siamo un po' fregati e abbiamo comunque vinto la scommessa, perché poi in realtà nel primo mese ha venduto più degli album precedenti tipo Amen, secondi in classifica non eravamo mai stati, siamo stati primi in classifica su iTunes, insomma, quindi anche ci ha piacevolmente sorpresi, no? anche gli ha sorpreso un po' anche gli addetti ai lavori credo, e anche i fan e chi non ci conosceva ha risposto bene, quindi mai fossilizzarsi sulle cose, sulle formule, diciamo così, precostituite. Esatto, no? Esatto. Cominciamo allora questa scaletta sull'album nuovo con Futuro, che racconta tutta la disillusione che si trova a vivere nella conseguenza di scelte importanti, è così? Sì, è un po' così, parla sai, magari poi per i testi bisognerebbe che ci certo, certo, ma così alla grande, così. Però Futura è una canzone che, diciamo così, la parte musicale è nata da me. Mm. Poi lui ha innestato una piccola parte melodica sulla strofa e ha scritto un testo che secondo me è bellissimo. A me piace molto. Ti è piaciuto immediatamente, insomma. Come, sì, piace molto come il testo che ha trovato per questa canzone. È una delle mie canzoni preferite, ma non perché l'ho scritta io, ma perché trovo che la commistione tra musica e testo abbia un equilibrio pazzesco. E sì, parla di questa storia qui, di un pomeriggio sul raccordo anulare con un amico, è una canzone sì, sulla disillusione, sul futuro che non si riesce più a cogliere, su quello che siamo stati, insomma. Certo, certo. La sentiamo allora, il futuro. Tu resta lì, Resta sempre lì, Certo, certo. Vabbè, ok. Blue Time Live. Live. Abbiamo aperto, come dire, le danze estraendo questo pezzo dal disco, dal CD che si chiama Fantasma, con la presenza telefonica di Claudio Brasini, che altro non è il chitarrista. Una cosa da sottolineare, Claudio, in questo disco, anche negli altri, ma in specie in questo disco, è perfetto come avete limato tutto, non c'è niente di fuori posto, assolutamente, è perfetto, perfetto. È un suono, si sente benissimo, anche in cuffia, si sente benissimo, è una cosa straordinaria. Quello, la soddisfazione che ti dicevo prima è anche per quello lì, perché in realtà è proprio farina del nostro sacco. Abbiamo lavorato molto anche dal punto di vista del suono, abbiamo curato molto in fase di registrazione, che ne so, la scelta del microfono, la scelta dei microfoni, il posizionamento dei microfoni, la qualità dei vari effetti che abbiamo usato. Insomma, abbiamo fatto un lavoro che oggi, con le nuove tecnologie, quindi con i computer, con i plugin, si è un po' perso, insomma. Non viene fatto più. Abbiamo lavorato in una maniera un po' antica, vintage, si può dire vintage, Claudio? Sì, si può dire. Però non credo che il suono che abbiamo tirato fuori sia poi vintage. No, quello no. Penso che abbiamo lavorato magari noi come modo di... Ma magari è un nostro limite, magari è la prima volta che facciamo una cosa così, quindi siamo partiti un po', diciamo, alla vecchia, insomma. Però certo, crediamo che il suono sia una rilettura del vintage, chiamiamolo così. Ci siamo ispirati a dei suoni più moderni rispetto a quello che magari poteva essere, che ne so, un Morricone o un Gainsbourg dannata, o cose magari più assimilabili a noi, un De André, per esempio. Certo, è un concept album dedicato al tempo. Francesco ha detto in un'intervista che il fantasma concretizza l'andare del tempo. Sì, è un concept sul tempo, sui vari scontri temporali. Cioè, fantasma è qualcosa che può rappresentare allo stesso tempo il presente, il passato e il futuro. È un tema caro a Francesco, nel senso comunque è molto ricorrente nei testi che scrive, specialmente dai mistici dell'Occidente in poi. E poi è un grande classico anche della filosofia. Ripeto, sono temi cari a Francesco che li scrive, ma anche a noi. Anche a te, però, anche a te, sicuramente. Certamente. Siamo tutti molto... Nel senso, Francesco scrive bene, benissimo che sono suo compagno, sono adesso contento. Certo. Siete tutti e tre di Montepulciano. Io ho scritto erroneamente di Arezzo, ma tu sei di Montepulciano, Montepulciano, provincia di Siena. Guarda, io sono nato ad Arezzo. Ad Arezzo, sei arettino di origine allora. Mia madre mi ha fatto lì, perché si trova lì, però in realtà non ho niente a che fare con Arezzo, perché sì, siamo tutti di... Io, in realtà io sono cresciuto a Torrita di Siena, che è un paesino che... con Montepulciano, okay. Francesco e Rachele sono di Montepulciano. È importante Montepulciano perché avete inciso, avete registrato qualcosina anche alla Fortezza Medicea di Montepulciano, è una cosa molto bella, molto importante. Sì, più che qualcosina abbiamo più che qualcosona, è qualcosona più che qualcosina. Abbiamo registrato tutto lì e buona parte dei mix e del suono è venuta fuori lì. Oltretutto dobbiamo ringraziare il comune di Montepulciano, il sindaco, i vari assessori, insomma si è creata una bella cosa, perché oltre a darci lo spazio fisico, appunto a metterci a disposizione la Fortezza Medicea, c'è un'ala della Fortezza Medicea abbandonata . E praticamente il comune ce l'ha concessa, l'abbiamo rimessa un po' a posto, abbiamo installato lì il nostro studio mobile e praticamente abbiamo fatto una regia, una sala di registrazione e ad esclusione dell'orchestra che abbiamo registrato in Polonia, il disco è nato lì, è stato fatto e registrato lì e ci siamo avvalsi anche di musicisti locali, che ne so, del coro di Montepulciano oppure dell'organo della chiesa, sì, del Sacro Cuore, l'uomo di Montepulciano, sì, è stato un esempio importante, spero che in Italia ce ne siano parecchi, perché sono cose belle, culturalmente è la dimostrazione che se trovi delle amministrazioni attente a queste cose possono venire delle belle cose, sono importanti per le persone, per il territorio. È bello, veramente. Decisamente. Adesso passiamo a Cristina. Cosa ci parli? Cosa dici di Cristina? Questo pezzo? Cristina, sì, è uno dei pezzi più movimentati. È più spumeggianti. Un critico ha scritto più spumeggianti, si può cantare anche sotto la doccia. Cosa ne pensi, Claudio? Sì, va bene. Poi sai, la musica, ci sono tante cose che... Del cantare sotto la doccia è molto soggettivo, nel senso parecchi cantano delle cose... anche se magari sono meno più complicate, insomma, no? Magari, che ne so, nel 1700 cantavano la musica classica sotto la doccia, quindi no, è uno dei pezzi più movimentati dell'album, più ritmato, un pezzo, se vuoi, musicalmente un po' più western. Sì, esattamente. Insomma, un pezzo che trova dà il giusto equilibrio all'album, insomma, uh-huh. Perché se no tutte cose un po' più lente. Si dà un po' di brio, qualche... dà un po' di brio. Esattamente. Sì, con questo andamento un po' così. E niente, praticamente lo ascoltiamo. Sì, certamente, come no? Stai sempre là, non ti muovere. Va bene, va bene. Blue Time Live. Sì, Claudio, cantare sotto la doccia un po' troppo, forse, però muoversi, quello sì, quello crea movimento, questo pezzo, assolutamente. Certo. Decisamente. No, ma mi riferivo... a volte, sì, chiaro, ho capito. Parlando con i discografici, no, ti dicono fai un pezzo che so, orecchiabile, un pezzo e ti creano uno stereotipo, no? Ah, certo. In questo disco una cosa che noi abbiamo proprio deciso di non fare è lo stereotipo. Bello, ovvero, è positivo. Facciamo una cosa che piace a noi, fregandocene un po' di quello che è lo stereotipo adesso proprio del modo di concepire la canzone e la musica. Mm-hmm, ho capito. Sembra che piaccia, insomma. Ma decisamente, a me piace molto, non solo a me, a tutti qua, a molti è piaciuto molto, quindi questa è cosa molto positiva. Oltre all'orchestra, la grande orchestra, oltre a voi, vi ha dato una mano qualcun altro come musicisti? Dunque, sì, praticamente poi nel disco ha suonato un po', diciamo così, il gruppo permanente che ci segue dal vivo. Lo citiamo, dai. Per esempio Ettore Bianconi e Maiorino... Diego Palazzo. Sì, anche coautore mi pare Maiorino di questo pezzo, è vero? Sì, sì, sì, anche Diego ha dato dei contributi in qua e là, e poi abbiamo anche Paolo Inferra alla batteria, ecco, diciamo questi qui sono quelli che ci stanno seguendo, sono la nostra band, insomma, poi in tournée praticamente. Sì, sì, che ci seguono in tournée e che coinvolgiamo anche sia in alcune fasi di scrittura e anche in fase di registrazione. Poi abbiamo incrementato la famiglia di questo album, abbiamo tirato dentro Sebastiano De Gennaro alle percussioni, qua e là, ha suonato diverse cose anche Enrico Gabrielli, che è l'autore degli arrangiamenti dell'orchestra, nonché direttore dell'orchestra quando suoniamo dal vivo con l'orchestra al completo. Spero di non scordare nessuno, perché alla fine poi abbiamo suonato con molta gente. Certo. È un album aperto, come si può dire, dal punto di vista dell'apporto musicale, come tutti i vostri album, secondo me. Siete liberi, assolutamente. Sì, in realtà sì. Bene, questo è positivo. E sei stato libero anche di scegliere un vecchio pezzo di Edoardo De Andris. Hai cantato il romanesco. Come mai, Claudio? Lella, ti sei ispirato a Lella? Ma guarda, io in realtà si parla di Fontanini. È proprio di quello, sì. Che è scritto totalmente a te. Sì, io ho scritto quella musica, ma sinceramente poi... diciamo così, l'affinità con il cantato del romanesco e la canzone popolare romanesca, diciamo così, stile Marder Ballad, l'ha trovata Francesco. Ah, ho capito. Anzi, io in realtà mi ero ispirato a cose più country americane. Tipo, eri un po' lontano da De Angelis, praticamente. Tipo Johnny Cash. No, ma mi piace molto anche a me quella roba lì. Però magari, il mio modo di scrivere è un po' diverso, perché comunque scrivo pensando alla musica. Certo. Magari il modo di scrivere di un autore, anche di testi, è un po' diverso, nel senso che comunque deve pensare sempre anche alla forma metrica del testo da mettere dentro, deve immaginarsi altre cose, no? Deve trovare delle ispirazioni, dei punti di attivio, quindi... Ma sono tutte... oltretutto sono stato meravigliato anch'io la prima volta che Francesco ha mandato il pezzo e era cantato in romanesco. Mm-hmm. Esattamente. Mi è sembrata una cosa geniale, sinceramente, perché comunque fare una canzone in dialetto romanesco, una canzone che parla di carcere, di esatto, disagio, e comunque poi trovarvi l'aggancio stilistico alla nostra cosa, sulle cose diciamo così romane di quell'epoca lì, mi è sembrato azzeccato. Oltretutto è un terreno che non avevamo mai esplorato, quindi perché no. No, volevo collegarmi un attimo a quello che stavi dicendo poc'anzi, Claudio. Le tue canzoni, quelle che scrivi tu, prendi spunto da qualcosa che ti capita nella tua vita, o sono cose anche che non succedono, ma sono frutto della tua fantasia? Ma guarda, diciamo il modo di creare una una canzone, quindi della musica, è sempre molto soggettivo. Nel mio caso, io ti posso dire che non c'è una regola fissa, cioè ci sono dei momenti che possono durare anche mesi che non mi piace nulla di quello che scrivo. Magari poi capita il momento che, non lo so, leggi un libro, vedi una cosa alla televisione, ascolti un nuovo album, cambia la stagione, cioè nel certo. senso c'è più luce, magari, come ora, e magicamente ti trovi l'ispirazione, e magari ti vengono delle cose, ma anche piccole, se però poi trovi della soddisfazione, trovi dell'interesse a svilupparle e riesci a svilupparle, a dargli una forma che ti soddisfano. Cioè. A volte questa cosa è più naturale, quindi legata proprio a un fatto di condizione, di ispirazione. Altre volte è più studiata, nel senso magari ascolti una canzone e dici mi piace quella roba lì, gli voglio dare quel sapore certo, lì, voglio certo. ricreare quelle atmosfere lì. Comunque il fatto della creazione è comunque frutto di ispirazione sì, ma anche di uno studio, cioè c'è del lavoro dietro, non credo a chi scrive in maniera geniale, c'è del duro lavoro dietro alla creazione di una canzone. Sei prolifico nella scrittura tu? Ma scrivo molto, sinceramente. Ti piace? Mi piace, mi dà soddisfazione, certo. ma sono anche uno che fa parecchia autocensura. Cioè, nel senso, poi quello che faccio ascoltare a Francesco Arrachele è meno di quello che in realtà scrivo. Faccio già una prima scrematura da me, ma anche perché è bene che sia in quel modo, non tutto quello certo. che uno scrive poi magari è di qualità o magari rientra in un preciso contesto, certo. cioè, nel senso, questa volta avevamo deciso di fare delle canzoni per orchestra, magari se diventa una canzone più pop o più pop rock o più non proprio adeguabile a quella forma lì, è chiaro che magari non gliela fai nemmeno sentire certo. o gliela fai sentire dopo, insomma. Va bene, ci ascoltiamo ancora un estratto da questo fantasma, che ne dici Claudio? Va bene, ci ascoltiamo con Tali Inverni. Vai, perfetto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21 passate da 46 minuti, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, perché appunto la state ascoltando, e cioè Blue Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spallone, che assieme a Maurizio Calzavara sta, come dire, con molta gioia ospitando. Sì, stiamo volando, stiamo camminando, stiamo proseguendo. Questo disco, esatto. Posso dirtelo Claudio, che è un disco splendido questo. Grazie. Mi fa piacere che mi fate tutti questi complimenti, ci fate tutti questi complimenti. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Certo. Ma c'è un motivo perché te li faccio, oltre ad essere sinceri, diciamo, nel disco, ma è perché voglio strapparti la promessa se ci vieni a trovare qui in studio con Francesco Arrachele. Ma volentieri, se capita l'occasione, perché no? Guarda che le porte sono aperte, quando ci vuoi venire a trovare, farle sentire. Okay. Qualcosa in acustico ci fa molto piacere. Caro Claudio, adesso facciamo un piccolo percorso indietro o in avanti secondo i punti di vista. Secondo me indietro, ma indietro che suona di andare in avanti. Hai scelto due pezzi, siamo messi d'accordo cari ascoltatori, prima io e Claudio, hai scelto due pezzi, 1993 e 1967. East Coast, sempre costa americana, costa di New York. Perché mai? Due pezzi americani. Guarda, io ti dico. Intanto citiamo i protagonisti di questi due pezzi. Sì, allora, niente, i pezzi sono. Mi sembra che uno sia tipo Drunken Butterfly, Perfetto, e perché mai 1993 da dirti questo pezzo? Perché è un pezzo che, diciamo così, quel periodo lì è stato fondamentale sia per la crescita musicale dei Baustelle. Mm. Ma anche la crescita musicale di Claudio, però. Sì, sì, anche mio, nel senso, sai, i Baustelle sono nati, vengono da una cosa precedente, cioè mm-hmm. nel senso che perché io, Francesco, siamo coetanei. Sì, Rachele? E abbiamo iniziato a suonare in un gruppo la chitarra mm-hmm. Insieme un po' di anni prima. E comunque ci piacevano quei gruppi che facevano casino con la chitarra parecchio. Esatto, molto distorta. E Dirty era uno, i Sonic Youth erano uno dei nostri gruppi preferiti, come amavamo molto, diciamo così, la scena grunge di quel periodo. 1993, quindi proprio piena sì, scena io grunge. Ora è stato un caso che sia... Sonic Youth che Velvet Underground sono East Coast, no? Sì, esattamente. A me piaceva la scena dei primi anni 90, no? Certo. Tipo, che ne so, Nirvana, Soundgarden, Madonna, mm-hmm. Insomma, queste cose qui sono state fondamentali, oppure i Pavement, tutta quella roba lì. Ho scelto quel pezzo lì dei Sonic Youth perché è con il nostro amore per i Sonic Youth e per in generale con i gruppi che avevano una donna all'interno mm-hmm. che poi abbiamo deciso di andare a cercarci Rachele, praticamente, che è stata fondamentale certo. Insomma, no, per noi, per il nostro figlio, per le sue capacità. Quindi mi fa sempre molto piacere ricordare quel periodo lì, perché è stato di grande creatività e di grande cambiamento. Cioè, ci piacevano talmente tanto i Sonic Youth, ci piaceva talmente tanto la musica, ma ci piaceva talmente tanto anche per pensarci con una ragazza dentro, che poi alla fine l'abbiamo fatto. Certamente. Perché guarda che dimmi. Nel 92 comunque, io non so lì da voi, ma magari si vedeva su Video Music il gruppo. Sì, ma noi musica rock ancora già nel 92, 35 anni di onorato servizio qua dentro, sai, quindi già all'epoca. Cioè, noi qui dalle nostre parti a Montepulciano tutti con ragazzi dentro, no. Non c'era nessuno, vero? Non esatto. Esisteva, quindi ci piaceva anche apposta questa cosa qui. E poi abbiamo avuto la fortuna, insomma, di trovare Rachele, che è bravissima, quindi certamente. Cioè, non devo certo decantare io le sue idee. Certo. Sentiamo il pezzo allora, ok? Whisper, kiss me. Claudio, ci senti? Ci sei? Bene. 1993. 1967. Adesso mi devo alzare in piedi. Quando canta Nico. Non canta Nico, Sunday Morning. Tutti. Non canta. Canta John Lou Reed con voce femminea. È così? Sì, credo di sì. È proprio così. Storicamente è così. Anche se il pezzo doveva cantarlo Nico. Perché Sunday Morning? Perché questo è un capolavoro assoluto. Sunday morning perché ho un ricordo particolare legato a questa canzone. Se fai caso, tutte e due le canzoni che ti ho citato, che ti ho indicato, sono canzoni che comunque hanno dentro una presenza femminile. Esattamente, quindi, importante. Considera che noi Sunday morning, io mi ricordo che facevamo le prove nel 1990. Sì. E già suonavamo in maniera abbastanza approssimativa, perché nessuno di noi sapeva suonare poi veramente, e facevamo questa canzone qui, questa cover qui, provavamo a fare questa canzone. Bellissima, una cosa meravigliosa. Col senno di poi mi sono reso conto che forse la nostra componente femminile, in maniera del tutto involontaria, ma era già dentro di noi. Ah, ecco, vero. Poi ricordiamo, questo era il singolo, l'altro lato era Femme Fatale, quella la cantava veramente Nico. Quindi. Sì. Sentiamo questo pezzo. No, quel disco lì ci abbiamo... Abbiamo imparato a suonare con quel disco lì. Più o meno le facevamo tutte, anche... In realtà quello mio proprio preferito al 100%, che mi affascina allo stesso modo di Sunday Morning, è Venus in Fars. E punto, dimmi. Ed era stato scritto proprio all'alba di una domenica mattina, era la realtà, non è una leggenda metropolitana. Sì, vero. Sentiamo questo capolavoro assoluto. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Someone around you who calls. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Caro Claudio, un pezzo simile ha fatto la storia della musica, assolutamente la storia. Lo diceva ben Brian Eno, chi comprò quelle poche copie di questo disco sono diventati grandi critici e grandi musicisti. Guarda, ma qui si potrebbe fare anche proprio un'altra trasmissione un'altra volta sui pezzi che invidio, cioè nel senso dei pezzi che avrei, che sono invidioso, che ne avrei voluto. Ah, quando vuoi, non ci sono problemi. Quando vuoi. La lista è lunga. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Caro Claudio, questa bella chitarra lisergica ci stava benissimo dopo il pezzo dei Velvet, chiaramente. Questo è il pezzo, il Fantasma, titoli di coda, è l'ultimo pezzo del disco. Bello, veramente bello e lisergico, secondo me. Cosa dici? Sì, lì Gabrielli, che ha orchestrato il tutto, si è sbizzarrito, ci ha fatto ridere anche a noi. Abbiamo sentito la cosa. Claudio, noi ti ringraziamo per questa oretta, ti abbiamo spulciato, sono riuscito a spulciarti un'oretta. Grazie tante, è stata una bella cavalcata. Grazie a voi, grazie a voi. Mi ha fatto piacere, saluto tutti gli amici del Veneto. Claudio, prima di tutto dobbiamo salutare e ringraziare anche Michele Annechini che ci ha permesso questa diretta. È stato il nostro gancio. Certo. Okay. Salutiamo il buon Michele. Va bene. Tanto avremo modo di vederci, perché comunque anche in estate faremo tappa in Veneto, credo che verremo a Verona al Teatro Romano. Ah, quindi bene. Allora poi una bella location, insomma. Sì, appunto. Oltretutto lì siamo con l'orchestra al completo. Ah, bene. Quindi dai, avete un bel posto per fare musica. Certo, bellissimo. Va bene. Claudio, ancora grazie di cuore di questa partecipazione e di questa disponibilità, soprattutto. Grazie a voi. Grazie Claudio, di tutto. E in bocca al lupo per per l'inizio, per il ritorno della tournée, no? Le nuove date, Claudio. A proposito, velocissimamente, ci puoi citare alcune date nuove? Quelle di maggio? Ti ricordi? Ma, guarda, io quelle che ricordo così al volo, mi sembra il 2 di maggio a Parma, Teatro Regio, e 4 maggio Monte Cassino. Vabbè, poi nel sito c'è scritto tutto in ogni caso. E poi sì, poi parte l'estivo, ricordavo appunto questa qui di Verona perché con l'orchestra è una location bellissima. Chiaro. E poi sinceramente quella Ferrara sempre con l'orchestra al completo, poi sinceramente non me ne ricordo. Va bene. Grazie Claudio. Grazie ancora. A risentirci. Ciao, grazie. Ciao.